Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. La mobilitazione, la disfatta di Caporetto, la resistenza sul Monte Grappa e lungo il fiume Piave, la vittoria e la conquista di Trento e Trieste. C'è tutto questo in quei 41 mesi in cui l'Italia prese parte alla Grande Guerra, ma ci sono anche le vite di 650.000 italiani perse nel fango e nella neve, in quelle trincee. Una guerra che avrebbe dovuto essere breve e incruenta e che invece dilaniò l'Europa e il mondo per quasi 5 anni, ponendo inoltre le premesse per la Seconda Guerra Mondiale. A 100 anni da quel conflitto, allora, inevitabile bandire qualsiasi retorica celebrativa nel pur giusto ricordo di chi da quella guerra venne inghiottito. Tra questi, innumerevoli furono gli uomini di sport che aderirono entusiasticamente e spesso volontariamente alla mobilitazione generale, prima di conoscere sul campo di battaglia il dolore e la disillusione. Alcune di queste storie vogliamo oggi raccontarvi, a partire da quella di Giuseppe Sinigaglia, il grande canottiere comasco caduto ad appena 32 anni nell'agosto del 1916, dopo aver vinto proprio all'alba della Grande Guerra, nel luglio del 1914, la Diamond Sculls Cup, il più grande trofeo del canottaggio mondiale a Henley, sul Tamigi, vero e proprio tempio di questo sport. Nostro ospite è un altro mito del canottaggio, Giuseppe Abbagnale, che col fratello Carmine, il timoniere di capo, ha vinto mondiali e olimpiadi e oggi è presidente della Federazione Canottaggio. Presidente, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per avermi invitato. Presidente Abbagnale, lei che gli inglesi li ha più volte sfidati in acqua, sa bene il valore che per loro ha il canottaggio e il senso quindi straordinario della vittoria di Sinigaglia. Il canottaggio, diciamo, per certi aspetti era lo sport dei nobili e quindi ancora di più nell'ambito sociale aveva un ruolo come dire, di primo ordine. Perdere una gara poi da un italiano magari in quel contesto veniva vista come una doppia sconfitta, ecco, questo quindi ancora di più è ad apprezzare il valore di quella vittoria. Allora, Presidente, ripercorriamola insieme la parabola di Giuseppe Sinigaglia. cm x 100 kg, Giuseppe Sinigaglia da Como è atleta davvero prorompente per i suoi tempi. È appassionato di molte discipline, come ci ricorda Maurizio Casarola, scrittore, giornalista e autore del libro Lo chiamavano Sina, edito da Nord Press. Inizialmente era un ginnasta nella Comense. Comense era una delle società storiche di Como. Poi da lì provò un altro sport che era un classico, che era la lotta greco-romana, però arrivò ad essere anche campione italiano nel 1905, titolo conquistato a Como, oltretutto, proprio la sua città natale. Piano piano però il fascino del suo lago e dei remi ebbe la meglio. Al canottaggio ci arrivò praticamente dopo la finale disputata nel campionato italiano di lotta, dove si fece abbastanza male ad una spalla, ebbe alcuni problemi relativi a poter continuare a fare la lotta con quella spalla un po' malconcia, e lo notarono quelli della canottiera Ilario e da lì subito cominciò, videro in lui le potenzialità che erano elevate e da lì cominciò l'avventura nel canottaggio. Carriera straordinaria quella di Sinigaglia, in singolo ma anche in coppia con un compagno di remo e di vita, ricorda Casarola. Era Teodoro Mariani, comasco anche lui, come lui un ragazzo di buona famiglia. Teodoro Mariani era figlio di un banchiere, mentre Giuseppe Sinigaglia era figlio di un albergatore. Insomma, tutti e due ragazzi con abbastanza quattrini in tasca, che all'epoca insomma era una cosa che faceva la differenza. Ma nonostante questo, tutti e due ragazzi volenterosi che facevano uno sport duro come il canottaggio, ma in coppia hanno vinto più di un campionato europeo. Erano forti davvero, insomma. Vittorie in serie, ma un unico grande rammarico nella carriera del campione. Un rimpianto a 5 cerchi. avrebbe potuto disputare le Olimpiadi intermedie, quelle del 1906 ad Atene, per la lotta, ma aveva avuto quel problema che dicevamo prima della spalla e quindi niente da fare. Poi nel 1908 già non, la lotta l'aveva lasciata, faceva il canottaggio, ma non era ancora un atleta di interesse internazionale o di interesse olimpico. Quelle buone potevano essere quelle del 1912, ma appunto ebbe questi problemi, questi dissidi con la federazione e tutto andò a rotoli, insomma. L'anno buono era quello del 16, aveva appena vinto nel 14 la Diamond School Cup sul Tamigi, che era la più grande manifestazione remiera al mondo per i singolisti, però sappiamo tutti quando finire, insomma. È il 4 luglio del 1914 quando a Henley, il tempio del canottaggio inglese e mondiale sul Tamigi, Giuseppe Sinigaglia conquista il trionfo più prestigioso. Sbaraglia a tutti i rivali e vince la Diamond Sculls Cup. Quella gara è stata una gara di eliminazione, no? Lui dovette battere, perché è ancora oggi quella gara viene fatta in questo sistema un po' particolare. Oggi come oggi le gare di singolo non vengono fatte uno contro uno, invece allora quella gara si faceva ad eliminazione diretta, praticamente uno contro uno finché arrivavi alla finale, e lui dovette battere tre avversari prima di arrivare in finale. Insomma, li batté tutti, ma per distacco oltretutto, proprio annichilì gli avversari che mai più si aspettavano che questo ragazzone venuto dall'Italietta di allora riuscisse a sbaragliare il campo in quella maniera, proprio nel reame del canottaggio, insomma. Anche il suo avversario nella finalissima, l'inglese Collins Stewart, non tornerà dal fronte, morendo nelle Fiandre. Al momento dell'ingresso dell'Italia nel conflitto, Sinigaglia aderisce entusiasta alla mobilitazione, sottolinea ancora Casarola. Lui parte da subito come volontario, vuole addirittura andare a combattere in Albania, e vincerò il fronte contro gli austriaci in lungo e largo, dal Trentino fino al Carso, passando per il fronte dell'Isonzo, insomma un po' da tutte le parti. Dove c'era bisogno lui si offriva volontario e ce lo mandava. Invece che all'Albania venne mandato come tenente dei Granati di Sardegna alla conquista di Cima 4 sopra Gorizia, un colle che è stato una vera ecatombe di soldati italiani, non solo di soldati italiani, ma anche di soldati austro-ungarici, che gli austro-ungarici tenevano quella posizione, gli italiani cercavano di conquistarla ed è stato un cimitero, insomma. Sono le 15:15 del 10 agosto 1916 quando il destino di Giuseppe Sinigaglia si compie. Le cronache del tempo dicevano che lui effettivamente era morto conquistando la trincea, esponendosi troppo al fuoco dei mitraglieri della bombe degli ungheresi, che stavano in una parte della collina un pochino più alta di fronte a lui, che tenevano ancora delle trincee, e questi, lui era alto 1,93 m, e quindi si sporgeva troppo col busto fuori dalla trincea e poi in preda all'orgasmo per aver appena conquistato questa trincea, spronando i suoi uomini, viene falciato da una mitragliata e muore il giorno dopo. Pochi giorni prima, sempre al fronte, era morto anche Teodoro Mariani, il suo fedele compagno d'equipaggio. La morte di Sinigaglia, spiega Maurizio Casarola, solleva ancora oggi dubbi e incertezze. Dopo un mese dal fatto, che avviene il 10 di agosto del 1916, dopo un mese dal fatto viene incaricato una specie di commissione composta da un medico che parte da Como e va sul fronte a vedere che cosa era successo realmente, e poi lui dà un resoconto che dice che sì, effettivamente doveva essere stato colpito da degli austriaci che però erano nascosti dentro dei cunicoli, non volendo uscire, spronati da Sinigaglia che li voleva tirare fuori a colpi di mazza, questi gli sparano e lui poi muore. Forse c'è da fare un po' di chiarezza su questo fatto, perché appare un po' così, un po' strano, ecco, la modalità di come possa essere successo. Giuseppe Abbagnale, presidente della Fercanottaggio, abbiamo rivissuto il mito di Giuseppe Sinigaglia, a cui oggi tra l'altro sono intitolati anche lo stadio e la prestigiosa canottiera Ilario di Como. Ma qual è la vera eredità che ha lasciato questo grande campione? Ma quello di essere stata una persona tenace, sicuramente dedita all'abito sportivo. La guerra le ha fatto perdere la parte migliore della sua vita sportiva, ma proprio questo gli ha dato uno spessore, un valore ancora di più, tra virgolette, immortale. Presidente Abbagnale, grazie per essere stato oggi nostro ospite a Olimpia, la città dello sport. Prego, grazie a lei per l'intervento e per avermi cercato. Grazie. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. 4 miliardi, sì, avete sentito bene, furono 4 miliardi le lettere e le cartoline che vennero scambiate sul solo fronte italiano durante la Grande Guerra. Testimonianza evidente di quanto fosse sentita l'esigenza di rimanere in contatto tra chi partiva per il fronte e chi restava invece nelle retrovie o a casa a trepidare per la sorte dei propri cari. Ebbene, proprio dalla storia del calcio italiano arriva l'esempio di un bollettino informativo che senza il primo conflitto mondiale magari non sarebbe nato, oppure sarebbe nato, ma solo molto tempo dopo. Stiamo parlando di Urrà Juventus, la rivista oggi denominata HJM, che oggi riunisce i tifosi bianconeri, ma che allora, un secolo fa, nacque col preciso intento di tenere uniti i soci fondatori della Juventus, divisi tra il fronte e la natia Torino. E allora vi raccontiamo oggi questa storia insieme a Fabio Vergnano, l'attuale direttore di Urrà Juventus. Buonasera direttore, benvenuto a Olimpia. Le chiedo subito, immagino vi stiate preparando per celebrare i 100 anni della rivista, giusto? Certamente sì, appunto, siccome il nostro giornale è il 10 giugno proprio esattamente, compierà 100 anni e questo evento, questo compleanno verrà celebrato con l'inaugurazione di una grande mostra al museo della Juventus, allo stadio, in cui ripercorreremo questi 100 anni attraverso la grafica, le copertine, gli articoli delle firme più prestigiose, perché Urrà ha avuto anche scrittori importanti che hanno collaborato negli anni. E quindi siamo pronti, siamo come i nostri, diciamo, i primi uomini che diedero vita al giornale nel 1915, loro erano davvero in trincea. Noi siamo metaforicamente in trincea, però è un periodo importante, quindi ci avviamo verso il compimento della mostra, prima di tutto, che sarà accompagnata dalla pubblicazione di catalogo che verrà messo in vendita nelle edicole, come abitualmente in vendita giornale, e che accompagnerà appunto la mostra che al museo durerà per tutta l'estate. Beh, davvero un bel appuntamento, direttore. Ma ora facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo nella Torino di un secolo fa, quella in cui Urrà Juventus vide la luce nei giorni in cui l'Italia entrava ufficialmente nel primo conflitto mondiale. Erano innamorati del football a forza di vedere qualche pioniere tirar calcio a un pallone sui prati del Parco del Valentino. Per i fratelli Enrico ed Eugenio Canfari, mettere insieme un gruppo di amici e dar vita allo Sport Club Juventus era stato poi un tutt'uno, come ricorda il generale Giorgio Seccia, storico del calcio e membro della Società Italiana di Storia Militare. Enrico Canfari fu proprio uno dei fondatori, era uno degli studenti del liceo dove nacque la società. E nell'officina del padre, dove si riparavano le biciclette, al centro di Torino, fu proprio la sede, la prima sede del Football Club Juventus. Per Venne ben presto la guerra a cancellare la spensieratezza di quegli anni e a ghermire molti dei protagonisti di quel calcio entusiastico e pionieristico. Enrico Gaffari perse poi anche la vita nella Grande Guerra. Lui era comandante di battaglione in un reggimento della Brigata Piacenza e perse la vita nel San Michele. San Michele causò stragi immense di soldati italiani, austriaci e ungheresi, soprattutto ungheresi. Ansie, dolori, emozioni che gli juventini si scambieranno attraverso le quattro facciate del bollettino sociale, cui il club aveva dato vita pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto. Urrà Juventus. Ancora Seccia. Si teneva uniti proprio per raccontare quello che avveniva al fronte, le loro impressioni, la loro passione. Per l'intervento in guerra era trasmesso a quelli che rimanevano a casa. A questo proposito ti leggo qualche frase di una lettera che l'attaccante Benigno Dalmazzo, che era una giovane promessa della Juventus, un ragazzo che poi cadrà l'anno dopo, nel giugno del 16, sull'altopiano d'Asiago, scrive una lettera il 29 luglio 1915 e la indirizza ad Alfredo Armano. Alfredo Armano era un altro dei fondatori del club e riporta delle curiose riflessioni calcistico-geografico-militari, così le chiamo, e dice così: «Non abbiamo premura di vincere, ma la vittoria la vogliamo completa. Il girone sarà lungo, ma otterremo il campionato. Se non basta il tempo regolamentare, faremo delle riprese supplementari, ma la debacle degli avversari sarà clamorosa e il capitano Cecco Beppe sarà costretto a dare le dimissioni. I limiti del campo sono un po' estesi. La Svizzera e la Serbia sono due buoni linesmen che, come tutti gli altri, si accontentano di gridare i loro falli, senza però poterli impedire. Trento e Trieste, i due pali del gol che noi, novelli zio bomba, sfonderemo». Perché è importante, secondo me, queste frasi? Perché richiamano proprio uno spirito calcistico che veniva dall'Inghilterra. L'Inghilterra all'inizio della guerra la chiamavano il Greater Game, il grande gioco, e così era arrivato anche in Italia. Cioè molti sportivi juventini o di altre squadre o anche di altre discipline intendevano la guerra come la partecipazione a un grande gioco. Questo era il tema iniziale, diciamo, della guerra. Gelo, morte e sofferenze trasformeranno ben presto questo ingenuo entusiasmo iniziale in scoramento e disillusione. Se un Rayo Juventus non abbiamo le lettere che questi sportivi scrivevano poi alla fine del 16 o nel 17, quando gli entusiasmi, diciamo, andarono a scemare in virtù delle grandi stragi che avvenivano al fronte. Quello sarebbe stato curioso, vedere come sarebbe cambiata l'opinione e il sentimento verso la guerra di tutti questi sportivi. Eppure la passione per il calcio sopravvisse a quelle trincee, anzi con esse si intrecciò. Sul fronte occidentale, ad esempio, vi è testimonianza di almeno due assalti condotti da battaglioni inglesi verso le trincee tedesche, calciando un pallone verso il nemico in segno di sfida. E un altro e ancora più curioso episodio, come ci ricorda ancora Giorgio Seccia, si verificò sul fronte medio orientale. È quello che avvenne addirittura in Palestina durante la battaglia di Beersheba. Qui fu un'intuizione di uno che era rimasto anonimo. Il racconto ci viene da un ufficiale britannico che scrive al padre raccontando il fatto. Questo reggimento si era incuneato in una specie di vallone durante la notte, e questo vallone all'alba scoprirono che era a tiro delle batterie turche che stavano sul fronte di Beersheba. Non potevano andare né avanti né indietro, secondo i concetti militari. A un certo punto un tizio che è rimasto sconosciuto lanciò un pallone in avanti. A quel momento tutto il battaglione corse verso questo pallone e i turchi neanche spararono un colpo, perché rimasero, dice questo ufficiale, rimasero talmente attoniti a questa prova così strana che furono sconfitti senza colpo ferire. Fabio Vergnano, direttore di Rai Juventus. Abbiamo ripercorso così insieme la storia della rivista e la passione per il football anche durante la Grande Guerra. Ecco, nel salutarla, direttore, le chiedo: quale futuro aspetta la rivista del popolo bianconero? Il futuro, noi speriamo che sia un futuro brillante come è stato il passato di questa pubblicazione. I tempi cambiano e quindi adesso Urrà rimarrà quale sicuramente un giornale cartaceo, ma verrà sviluppata in particolare la parte sui social network, quindi daremo ai tifosi sempre più la possibilità, attraverso non solo i contenuti, quello che sarà il giornale cartaceo in vendita, ma con l'aggiunta di filmati, altre cose interessanti che i tifosi potranno consultare o sui loro iPhone o su tablet, perché ormai soprattutto il pubblico giovane è indirizzato verso quello, no, in particolare. Quindi noi daremo in futuro molta attenzione a questo aspetto nuovo. Allora, direttore Fabio Vergnano, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport, e altri 100 almeno di questi anni. Speriamo, vi ringrazio molto. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un ringraziamento in regia a Roberta Frisani. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sul nostro sito radio24.it e dialogare con noi attraverso la mail olimpia@radio24.it. Spazio ora, come sempre, a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.